ciao a tutte e tutti. Sì, allora diciamo che del decreto Minniti Orlando avevamo già parlato in una scorsa puntata di questa trasmissione, prima che uscisse pubblicamente, che insomma che venisse pubblicato il decreto legge del febbraio del 2017. Diciamo che effettivamente questa questione del decreto legge sta calamitando un po' tutto il dibattito pubblico, politico e anche un po' di movimento, no? Su la questione dell'immigrazione, insomma delle politiche migratorie, come se fosse la grande novità del 2017, diciamo. In realtà, nel senso, a mio parere, è in realtà un decreto che mette a sistema e accelera una serie di processi che in realtà esistevano già tutti, cioè da tantissimi anni, e li intensifica, ma soprattutto collega in una maniera proprio messa nero su bianco, non so come dire, il collegamento sempre più forte che esiste tra la dimensione interna della repressione, quindi sul territorio statale, e la sua dimensione internazionale, cioè sia a livello di Unione Europea che invece appunto di accordi bilaterali e multilaterali con i paesi di origine e transito. Soprattutto, poi entreremo un po' più nel dettaglio, però mi sembra importante sottolineare che il decreto legge e la legge di conversione, di cui poi parleremo insomma in coda questo approfondimento, dimostrano sempre più chiaramente che il campo del diritto dell'immigrazione è un po' un campo in cui il legislatore mette a prova, cioè testa una serie di dispositivi di controllo e repressione delle vite delle persone, che poi vengono estesi anche agli autoctoni, diciamo, quindi a tutte e tutti noi. E considerare questo elemento è importante non tanto da insomma una prospettiva egoistica da cittadini italiani con i documenti, ma per capire, insomma, no? Per saper leggere in anticipo tutta una serie di cose che si muovono, senza ogni volta farsi cogliere dalla sorpresa e dall'emergenza del momento, ma capire un po' quali sono i trend nel tempo di, insomma, della repressione statale. Come avevamo già detto in realtà nella scorsa trasmissione, il decreto legge, quindi uno strumento normativo in realtà che andrebbe utilizzato nelle situazioni di necessità e urgenza, quindi non che ce ne freghi niente, ma insomma possiamo anche dire che è stato utilizzato in maniera non legittima, perché in realtà norma una questione che di emergenza non ha un bel niente, nel senso che è proprio una roba strutturale non solo della società italiana, ma insomma dell'epoca attuale, quindi non si capisce bene perché bisogna utilizzare uno strumento legislativo che non aveva senso di essere utilizzato in questo contesto, soprattutto, e questo fa un po', a me mi fa un po' ridere, però forse perché sono un po' infognata io nelle questioni giuridiche, mi fa un po' ridere l'utilizzo di un decreto legge che include delle disposizioni che hanno un'applicazione a 180 giorni. Cioè, nel senso, tu usi una roba che potenzialmente ha una vigenza di 60 giorni perché poi non viene convertito, e ci metti delle misure che vengono implementate dopo 180 giorni. Cioè, fa un po' strano. Però vabbè, facciamo finta che non ce ne frega niente. Cioè, a me mi fa ride, però vabbè, sarà un po' che sto fuori. Allora, diciamo che questo decreto legge è molto complesso, è molto complesso da leggere, molto lungo, però possiamo enucleare una serie di elementi fondamentali, no? Enucleare è un verbo italiano. Grazie. Vuol dire sottolineare, individuare. Vabbè, una serie di elementi importanti, cioè di aree tematiche, no? Che vengono insomma riformate al margine, che riguardano da un lato l'accoglienza, quindi tutto il sistema dell'accoglienza, la macchina, questo business dell'accoglienza, e da un lato la repressione, quindi espulsioni e repressione dell'immigrazione, dell'immigrazione irregolare. Allora, per quanto riguarda le politiche dell'accoglienza, diciamo che non viene inserita a mio parere nessuna novità di rilievo rispetto al sistema dell'accoglienza, nel senso che semplicemente il decreto dice che bisogna puntare su un sistema di accoglienza diffusa sul territorio, con un fortissimo ruolo da attribuire all'ANCI, quindi all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con un rafforzamento dello SPRAR come modello virtuoso di accoglienza, fermo restando il coinvolgimento volontario dei comuni nell'accoglienza, dove la contropartita è: se tu decidi di ricevere una serie di richiedenti protezione internazionale sul tuo territorio, io ti do i fondi. Okay, quindi di base sarebbe una penalizzazione per chi decide di opporsi a questo modello di accoglienza. Questa è, cioè, la novità. Dopodiché è una novità che è una fuffa, perché in realtà continuano ad aprire continuamente CAS, quindi centri di accoglienza straordinaria, che dovevano essere delle strutture che servivano a gestire l'incremento improvviso di arrivi, quindi delle strutture temporanee. Generalmente sono strutture fatiscenti, grandi ricicloni di strutture pubbliche, tendopoli, insomma, che accolgono tantissime persone in condizioni veramente degradanti, ma che continuano a essere insomma creati, anche se dovevano essere una struttura, cioè un sistema temporaneo. Infatti la Raggi ha appena, insomma, deciso recentemente di aprirne altri due solamente nel comune di Roma, quindi insomma, quindi nel senso, innovare per non innovare niente, diciamo. Questa disposizione sullo SPRAR è semplicemente un modo per il governo di mettere un punto al braccio di ferro con i comuni che si negavano, cioè che negavano, insomma, l'adesione al sistema SPRAR. Quindi il governo gli dice: ok, tu vuoi rifiutare, imbecchi una lira, invece tu vuoi aderire al sistema SPRAR, ti becchi i fondi comunitari per l'accoglienza. Cioè, appunto, era un modo per chiudere il cerchio di un dibattito che da mesi ci ossessionava rispetto a i sindaci che si rifiutavano di accogliere richiedenti asilo sul loro territorio. Quello che invece rappresenta un elemento di novità, che sempre non cambia niente, è il fatto che viene messa nero su bianco di nuovo la possibilità di impiegare i richiedenti protezione internazionale in lavori socialmente utili. Questa cosa già succedeva prima, quindi non è che è una novità reale, però insomma il governo ci ha fatto sapere, cioè ci ha tenuto a farci sapere che sono fortemente incentivate queste intese finalizzate a inserire questi richiedenti protezione internazionale in lavori socialmente utili, un po' per ripagare i costi dell'accoglienza, un po' per tenerli occupati intanto che aspettano il responso delle commissioni territoriali, eventualmente sui ricorsi avverso i dinieghi. Quindi insomma, poi si può fare tutto una considerazione, no, su, cioè, che abbiamo già fatto, sul fatto che viene definito lavoro socialmente utile, in realtà è lavoro gratuito, cioè non so come dire, è proprio sfruttamento gratuito di manodopera ricattabile, anche perché abbiamo, insomma, letto nel corso del tempo tutta una serie di notizie in cui si raccontava, no, che sono state appunto approvate delle misure di sospensione dell'accoglienza nei confronti di richiedenti protezione internazionale che semplicemente alzavano la testa rispetto alle condizioni di accoglienza, ai tempi di attesa, semplicemente alla negazione della libertà di movimento, non so come di proprio cose fondamentali, basilari. Quindi questo, anche questo, è un modo per chiudere il cerchio, cioè nel senso per consolidare un sistema premiale che va insomma a beneficiare quelle persone che più si conformano a un modello di assimilabilità che permette di proprio distinguere chi è accettabile e chi non lo è, chi è il migrante economico da chi non lo è e chi sono i richiedenti protezione internazionale che ci interessa continuare a tenerci e chi invece va punito, sanzionato perché non rispetta insomma le regole. Questo per quanto riguarda il sistema di accoglienza. L'altra novità riguarda, di questo pure si è parlato tantissimo, la riforma del sistema, possiamo dire, giudiziario legato alle richieste di protezione internazionale. Praticamente, a partire dalla consapevolezza del fatto che di fronte alle richieste di protezione internazionale le corti, le commissioni territoriali e le corti ci mettono troppo a decidere, quindi i richiedenti protezione internazionale aspettano anche 2 anni di capire se avranno un permesso di soggiorno, intanto secondo appunto il governo stanno parcheggiati lì senza ben capire che cosa stanno facendo. Allora, qual è stata la soluzione? Ok, riformiamo il sistema giudiziario. E quindi che cosa è stato fatto? Innanzitutto è stata prevista la creazione di sedi giudiziarie specializzate, cioè di tribunali che si occupano esclusivamente di materia di diritto dell'immigrazione. È stato aumentato l'organico da destinare a queste sedi specializzate e la formazione, insomma, destinata ai giudici che poi si occuperanno insomma di queste materie. In più è stato eliminato un grado di giudizio. Che vuol dire? Vuol dire che se uno fa richiesta di protezione internazionale passa in commissione territoriale, la commissione territoriale dà un diniego. E quindi che si può fare? Si può impugnare il provvedimento di diniego, mentre prima, così come è previsto insomma dall'ordinamento italiano, erano previsti 3 gradi di processo, come proprio della giustizia amministrativa, adesso ne rimangono solo 2, che sono insomma il primo grado e la Cassazione. Viene eliminato il giudizio in corte d'appello. Ovviamente questo ha provocato le ire funeste della magistratura, della Corte di Cassazione, dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che dicono insomma che è una lesione del diritto di difesa, di una serie di garanzie costituzionali, tra cui anche il divieto di istituire dei giudici speciali. Vabbè, che possiamo anche tralasciare, però la cosa la cosa effettivamente forse da sottolineare è che, per esempio, se tu prendi una multa, cioè ok, tu prendi una multa, una sanzione amministrativa, c'hai 3 gradi di ricorso, per una questione tipo la protezione internazionale e l'asilo ce n'hai 2, cioè questa mi sembra una cosa pure abbastanza singolare e bizzarra, possiamo dire. E questo insomma sulla protezione internazionale. L'ultimo grande ambito è non è vero, perché sulla richiesta di protezione internazionale un'altra cosa che vale la pena sottolineare, che avevamo già detto l'altra volta, è che praticamente quando tu vai in commissione territoriale a fare l'audizione, videoregistreranno l'audizione. Perché videoregistreranno l'audizione? Perché poi, quando tu fai ricorso verso il diniego, il giudice può decidere di non interpellare proprio il richiedente, ma di utilizzare la videoregistrazione dell'audizione in commissione, a meno che, e questa in realtà è una novità della conversione in legge, il richiedente protezione non faccia istanza di comparizione di fronte al giudice e il giudice decide se è il caso di sentire il diretto interessato, ma non per forza. In più, se tu fai richiesta di protezione dal carcere, sia l'audizione in commissione che eventualmente gli ulteriori gradi di giudizio li fai in videoconferenza, quindi anche questo corsi e ricorsi, no? Già insomma della videoconferenza abbiamo parlato in altri contesti, però appunto è un dato singolare, no? Il fatto che cioè, comunque delle cose si ripetono, dei dispositivi di repressione si ripetono, insomma è importante notare queste coerenze poi nei dispositivi statali. L'ultima grande sezione che riguarda il decreto Minniti di Minniti Orlando riguarda invece la repressione dell'immigrazione irregolare. Questa repressione dell'immigrazione irregolare, secondo il paradigma minnitiano, è una roba assolutamente indispensabile per il nostro paese, perché è l'unico modo che noi abbiamo, cioè reprimere l'immigrazione irregolare e deportare le persone, è l'unico modo che noi abbiamo per poter garantire invece un'adeguata protezione a chi è effettivamente bisognoso di protezione. Cioè, io non la so sbrogliare questa equazione, però è diciamo è come un assioma, cioè nel senso, per poter accogliere bene chi è bisognoso di protezione perché fugge dalle guerre, dalle persecuzioni, cioè, dobbiamo necessariamente rimandare a casa chi invece è qui irregolarmente e non ha diritto alla protezione internazionale, all'asilo e a tutte le altre forme di permesso di soggiorno per motivi umanitari, protezione sussidiaria, eccetera. Ha deciso così. Quindi, a tal proposito, nel decreto Minniti di Orlando che cosa si dice? Innanzitutto si riafferma l'assoluta necessità di intensificare le negoziazioni bilaterali e multilaterali con i paesi di origine e transito, in cui appunto l'Italia ha questo ruolo, no? Di apripista che propone modelli che poi vengono adottati a livello dell'Unione Europea. Vengono rinominati con un'operazione di maquillage i CIE, che vengono chiamati CPR, uno in ogni regione, possibilmente vicino alle vie di trasporto, quindi aeroporti eccetera eccetera, più piccoli, quindi per una capienza massima di 1600 posti su tutto il territorio italiano. E quindi adesso insomma quelli che già esistevano insomma verranno un po' rimessi a posto, e c'è questa grande corsa delle regioni a dire sì, io lo voglio, io non lo voglio, io lo voglio qui, io lo voglio lì, con il Veneto grande propulsore di questa ondata di repressione, per cui dice io voglio aprire il primo CPR, il più bello del mondo. E quindi vedremo insomma poi come verrà implementata questa roba qui. Sono stati aumentati i fondi per i rimpatri e per le deportazioni, e inoltre chi si rifiuta di dare le impronte e di sottoporsi all'identificazione nei punti di arrivo, quindi sia negli hotspot che nei porti, i cosiddetti punti di crisi, viene rinchiuso in un CPR, perché gli viene subito accollato il rischio di fuga, quindi non c'è verso. Praticamente questo decreto legge Minni di Orlando è stato convertito in legge, come insomma ci hanno tenuto a dirci tutti i giornali, una grande vittoria. È stato convertito in legge, ovviamente come sempre sulle questioni un po' spinose, perché è stato trasformato in un maxi emendamento su cui è stata posta la questione di fiducia. Il che vuol dire che tendenzialmente tutte le, insomma, i gruppi parlamentari avevano proposto degli emendamenti al testo, mi sembra circa 400, tutti questi emendamenti sono stati spazzati via. Il decreto legge è stato blindato, per cui i parlamentari dovevano decidere se approvarlo così in blocco per come era stato scritto, oppure con insomma delle lievi modifiche di cui poi parleremo, oppure far cadere il governo. Quindi di fronte a questa alternativa insomma tutti insomma hanno, chi più convintamente, chi insomma tappandosi il naso per amor di stabilità di governo, hanno deciso di approvarlo. Quindi il testo è stato convertito in legge in via definitiva il 12 aprile, votato prima al Senato, prima al Senato e poi alla Camera dei Deputati. Il testo definitivo di legge non è ancora pubblico, però insomma possiamo andare a vedere un po' quali sono state le novità, no? Oppure insomma l'assetto definitivo che è stato effettivamente approvato. Allora, innanzitutto, per entrare un po' più nel merito, i soldi stanziati per l'esecuzione delle procedure di espulsione sono ben 19 milioni di euro. Quindi soldi pubblici stanziati per garantire che la macchina delle espulsioni funzioni a dovere. Okay. È stata esclusa la detenzione nei CIE dei soggetti vulnerabili, quindi insomma meno male, diciamo un grande traguardo di civiltà, dove per soggetti vulnerabili ricordiamo si intendono tendenzialmente i minori, insomma le donne vittime di tratta, insomma tutta una serie di categorie di persone ritenute particolarmente svantaggiate, in condizioni insomma precarie, per le quali insomma viene esclusa la detenzione nei CPR. Ma non si tratta di una novità. No, niente si tratta di una novità. Tra l'altro, con la solita discrezionalità, sì, con la quale viene scelta, sì, insomma, questa categorizzazione. Esatto. E appunto, quindi è stata riconfermata questa questione dell'abolizione del giudizio in appello, ma sono state aumentate queste sezioni specializzate. Nel DL dovevano essere 14 e sono state portate a 26, quindi ci sarà una sezione specializzata in materia di immigrazione e di asilo presso ciascun tribunale ordinario del luogo in cui hanno sede le corti d'appello. Questa è, beh, comunque sono 26, ecco. Sono 26 e praticamente questa ghettizzazione processuale porterà al fatto che tutte le materie relative, per esempio, al mancato riconoscimento del diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, all'impugnazione di provvedimenti di allontanamento nei confronti di cittadini per motivi cittadini comunitari e non per motivi di pubblica sicurezza, riconoscimento del punto dell'asilo, il mancato rinnovo, rilascio o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nulla osta per i ricongiungimenti familiari e l'accertamento dello stato di apolidia, verranno trattati da giudici a parte formati che insomma si occuperanno nella loro vita solo di queste cose qui. Vengono riconfermati questi lavori di pubblica utilità gratuiti e volontari, ovviamente, cioè quindi volontari si fa per dire, perché poi è il fulcro, no, delle priorità del governo per quanto riguarda l'accoglienza, e questi lavori volontari dovranno essere il frutto di un accordo, di un'intesa tra prefetti, comuni e regioni. Una cosa interessante insomma di questa conversione in legge del decreto è che è stata praticamente introdotta, istituita una lista ufficiale dei paesi sicuri di origine e transito. Cioè, questa era una cosa che già c'era, nel senso che già informalmente veniva utilizzata dalle commissioni territoriali, insomma andava un po' di prassi, adesso viene proprio ufficializzata, cioè il governo, il Ministero dell'Interno stilerà queste liste, le aggiornerà continuamente, il che vuol dire? Vuol dire che se tu vieni, cioè c'hai il passaporto di, o prima di arrivare in Italia hai transitato per paesi di origine e transito che vengono considerati sicuri, la tua richiesta di protezione internazionale verrà considerata inammissibile e quindi tutta la procedura di diniego sarà super veloce e quindi di conseguenza anche la deportazione. Okay, questa in realtà è una roba importante perché mette a sistema una prassi che già c'era nel sottobosco ma che diventa assolutamente legittima, quindi incontrovertibile, cioè sarà così, cioè se tu vieni dalla Nigeria viene considerato paese sicuro, la Libia paese sicuro, paese di transito sicuro, tu per qualche motivo riesca a dimostrare che sei passato per la Libia, che vieni dalla Nigeria, che vieni dal Niger, via, subito, senza neanche stare a fare tutti i gradi di processo e cose, commissioni territoriali che magari ti danno quel respiro per poterti organizzare e andartene dall'Italia, non ce l'hai. Mm-hmm. E questa insomma è una roba abbastanza impressionante. Ma questa lista, cioè, già c'è la prima redazione? No, perché insomma la legge non è ancora pubblica, non penso, cioè nel senso uscirà a breve, non è che ci metteremo tanto a trovarla, però no, ufficiale non credo. Mm-hmm. Sinceramente. E sempre insomma per questa, su questa linea cioè insomma linea abbiamo il fatto che nel dettaglio ancora non è chiaro, però che questa legge di conversione prevederà delle sanzioni, non ho capito bene in che termini, però immagino insomma in termini sempre di velocizzazione delle procedure di analisi della richiesta di protezione internazionale e quindi di espulsione, contro i movimenti secondari. Che vuol dire? Vuol dire che se tu hai fatto richiesta di protezione internazionale in Italia e poi ti dai e provi a muoverti verso un altro paese comunitario, questi sono i movimenti secondari, e ti beccano e ti riportano in Italia per Dublino, praticamente la tua richiesta di protezione internazionale verrà cassata come se non ci fosse un domani, perché è un modo per incentivare il fatto che tu arrivi in Italia, vuoi fare richiesta di protezione internazionale, abbassi la testa e aspetti qua, come ti dico io, fino a che non ho deciso se sei meritevole di accoglienza o te ne devi tornare a casa. Ok? E un'altra, sempre per parlare del nostre insomma finanze pubbliche, sono stati stanziati 2,5 milioni per il 2017 e 5 milioni dal 2018 in poi per l'invio di carabinieri. Mi fa ridere questa cosa. Presso, immagino, questi carabinieri che vanno presso le ambasciate e gli uffici consolari di origine nei paesi di origine e transito dei flussi migratori per esigenze di sicurezza delle nuove sedi diplomatiche aperte dall'Italia, in particolare in Niger, in Guinea e a Tripoli, dove hanno riaperto il consolato italiano e l'ambasciata italiana. Quindi insomma questi soldi verranno utilizzati per mandarci questi carabinieri che garantiranno la sicurezza loro e dei nostri alleati nei paesi di origine e transito. Un'altra roba riguarda il diritto di visita all'interno dei CPR. Il decreto legge prevedeva l'accesso continuo, insomma incondizionato, del garante per i diritti dei detenuti all'interno dei nuovi CPR. La legge di conversione conferma questa, quest'altro grande passo di civiltà. Lasciatelo entrare. Lasciatelo entrare il povero garante, ma non solo il povero garante, ma anche tutti i soggetti, cioè potranno entrare tutti gli altri soggetti che sono ammessi a monitorare la condizione degli istituti penitenziari. Una grandissima vittoria. La grandissima vittoria, quindi ci verranno propinati tutti questi report sulle condizioni inumane di detenzione nei CPR nel futuro prossimo. Non vedo l'ora. Abbiamo l'ora di parlarne da questi microfoni. Vabbè. Allora, e poi l'ultima cosa di cui vorrei parlare rispetto a questa legge di conversione è la grande questione degli operatori dell'accoglienza. Okay. Avremo letto sicuramente tutte e tutti sicuramente tutte e tutti avremo letto sull'internet questa questione della trasformazione degli operatori in pubblici ufficiali. Allora, che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che nello specifico nel capo secondo del decreto relativo alle misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi le commissioni territoriali che modifica un decreto legislativo del 2008 viene esplicitato che nello svolgimento delle operazioni di notificazione, quindi di provvedimenti, misure, insomma, alle persone, insomma, che vivono nei centri di accoglienza, il responsabile del centro e della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge, un po' come i controllori di Trenitalia. E diciamo che questa scelta, insomma, del governo ha suscitato una mobilitazione da parte degli operatori dei centri. Non vorrei tanto, insomma, entrare nel merito, però sicuramente si sta creando, insomma, un po' una mobilitazione su questo tema. L'8 aprile scorso c'è stata appunto questa assemblea a Roma degli operatori dell'accoglienza, insomma, per cercare di organizzare una mobilitazione contro questa scelta, no? Da parte del governo. L'11 aprile c'è stato appunto un presidio sotto il Parlamento, è stata lanciata questa campagna Io Diserto, quindi per opporsi un po' alla trasformazione, insomma, prevista almeno formalmente del ruolo degli operatori dei centri d'accoglienza da parte del decreto Minniti Orlando ora convertito in legge. Sì, tra l'altro, insomma, si tratta, insomma, di figure. Anche qui non mi pare una novità rispetto al tipo di operato. Mi sembra appunto che venga messo nero su bianco, dopodiché abbiamo visto numerosissime espulsioni dal circuito dell'accoglienza in seguito a proteste e numerosissime denunce portate avanti dagli stessi operatori atti a gestire e controllare la vita di queste persone. Non mi sembra, insomma, che ci siano particolari cambiamenti rispetto il ruolo di queste figure, se non dal punto di vista, ecco, burocratico. Sì. Puoi anche dire di no. No, sono d'accordo. E niente, vabbè, questa è la questione del decreto legge Minniti Orlando, che ovviamente, nel senso, di febbraio, in questi 60 giorni era già in vigore, quindi in realtà ha già prodotto i suoi effetti. Ora la conversione in legge era ovviamente una tappa formale, ma comunque scontata, nel senso che rappresenta un po' uno dei capisaldi dell'azione di governo, appunto pubblicizzata su tutti i giornali a livello nazionale, nelle negoziazioni comunitarie. Ovviamente nessuno schieramento politico, come se fosse necessario dirlo, si è sottratto poi in maniera coerente di tutto il gruppo parlamentare all'approvazione di questo decreto legge. Anche insomma, parlamentari che avevano fatto della civiltà una loro bandiera politica hanno deciso che era importante convertire in legge questo decreto. Ad esempio, la senatrice Monica Cirinnà ha votato entusiasticamente pro la conversione, quindi anche qui forse un giorno ci faremo dei ragionamenti su questa cosa. E che dire? che dire, diciamo che a parte insomma le considerazioni un po' più folcloristiche sulla politica italiana, gli effetti insomma di questa scelta insomma repressiva si sono già fatti sentire, sono aumentate notevolmente i rastrellamenti strada, le retate, gli ingressi nei CIE, le espulsioni, quindi insomma non ci aspetta un bel avvenire, ecco.